Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Quando dovette prendere commiato da Berolfingen, il giovane Josef Knecht fu accompagnato alla stazione dal suo insegnante di musica. Era stato assegnato alla scuola di Hirschholz. Vedute di questa scuola gli erano già note per averle osservate nell'ufficio del suo rettore. Hirschholz era il complesso di scuole più grande e più recente della Castalia. Gli edifici erano tutti costruiti da poco. Nelle vicinanze non c'era alcuna città, ma soltanto una piccola località, chiusa in una fitta cerchia di alberi. Siccome i documenti sui primi tempi di scuola nell'élite sono tanto scarsi, citiamo un passo da una delle lezioni che Knecht tenne più tardi sul gioco delle perle. È vero che di queste lezioni per principianti non esistono più i manoscritti di Knecht, ma un allievo ne ha stenografata l'improvvisazione. In questo passo, Knecht parla di analogie e associazioni nel gioco delle perle di vetro e distingue fra associazioni legittime, cioè comprensibili a tutti, e associazioni private, ossia soggettive. Egli dice: «Per darvi un esempio di queste associazioni private, le quali non perdono il loro valore privato per essere assolutamente vietate nel gioco delle perle, vi parlerò di una siffatta associazione del tempo in cui andavo a scuola. Avevo circa 14 anni. Era di febbraio o di marzo, nel tempo che precede la primavera, quando un compagno mi invitò ad andare con lui un pomeriggio per tagliare alcuni rami di sambuco che gli dovevano servire da tubi nella costruzione di un piccolo mulino. Andammo dunque, e la giornata deve essere stata particolarmente bella nel mondo o nel mio cuore, perché mi è rimasta nella memoria e mi fruttò una piccola esperienza. Il terreno era umido, ma senza neve. Lungo i corsi d'acqua incominciava a verdeggiare. Arrivammo tra i sambuchi coperti di piccolissime gemme, ma ancor privi di foglie, e quando ne tagliai un ramo, fui investito da un odore violento, dolce e amaro, che pareva avesse raccolto, sommato e potenziato tutti gli altri odori primaverili. Ne fui tutto invaso. Annusai il mio coltello e la mano e il ramo di sambuco. Era quel succo a mandare un odore così penetrante e irresistibile. Non ne parlammo, ma anche il mio compagno annusò il suo ramo a lungo e sopra pensiero. Anche lui sentiva il linguaggio di quel profumo. Ebbene, ogni esperienza ha una sua magia. La mia consisteva nel fatto che la primavera in arrivo si concentrava ora nell'intenso odore di sambuco, in un simbolo concreto e in un incanto. Ma ora vi si aggiunse un secondo elemento. In quel tempo avevo trovato presso il mio insegnante di pianoforte un vecchio volume di musica che suscitò la mia massima attenzione. Era un volume di Lieder di Franz Schubert. Lo avevo sfogliato un giorno mentre aspettavo l'insegnante, il quale, a mia richiesta, me lo aveva poi prestato per alcuni giorni. Vissi allora il mio tempo libero nelle gioie della scoperta, poiché prima non avevo conosciuto nulla di Schubert e ne rimasi affascinato. Ed ecco, il giorno di quella passeggiata fra i sambuchi, o il giorno dopo, scoprii il canto primaverile di Schubert. L'aria dolce si è destata e nei primi accordi dell'accompagnamento mi parve di riconoscere qualcosa. Essi olezzavano, come il giovane sambuco, di un aroma altrettanto dolce, amaro, penetrante e pieno di indizi primaverili. Da quel momento l'associazione sentore di primavera, profumo di sambuco, accordo di Schubert è fissa e assolutamente valida. Suonando l'accordo, tosto mi torna l'aspro aroma della pianta e tutti e due insieme significano la primavera si avvicina. Questa associazione privata è una mia bella proprietà, una cosa che non cederei per nulla al mondo. La si può comunicare, certo, come io ora ve ne ho parlato, ma non la si può trasmettere. Io posso rendervela comprensibile, ma non posso fare in modo che uno di voi vi trovi un segno valido, un meccanismo che reagisca infallibilmente al richiamo e si snodi sempre in modo uguale. Il distacco da Eschholz segnò nella vita di Knecht una cospicua cesura. Se fino allora era vissuto in una infanzia beata, in un ordinamento volonteroso, in un'armonia quasi priva di problemi, ora si iniziò un periodo di battaglia, di sviluppo, di quesiti. Aveva circa 17 anni, quando a lui e a un gruppo di compagni fu annunciato il prossimo trasferimento in una scuola di grado superiore. Dopodiché, per qualche tempo, gli eletti non si trovarono davanti a nessuna questione così importante e più discussa di quella della località nella quale ciascuno di loro sarebbe stato trasferito. Secondo la tradizione, il luogo veniva palesato soltanto negli ultimi giorni prima della partenza e nel periodo fra la festa del commiato e il trasferimento era concessa vacanza. Ora, in quel periodo, Knecht poté fare una bella e importante esperienza. Il Magister Musiche lo invitò ad andare a trovarlo, facendo una gita a piedi e ad essere suo ospite per alcuni giorni. Una mattina presto, con un compagno, prese la via del bosco e dei monti e, quando dopo 3 ore di salita all'ombra del bosco i due si trovarono su una cima libera, videro ai loro piedi Eschholz, già diventata piccola e facile da abbracciare con uno sguardo. Videro dunque la scuola, che era stata per anni il loro paese, dalla quale tra poco si dovevano separare, e tutti e due si sentirono profondamente commossi. «Credo di non essermi mai accorto di quanto è bello», osservò il compagno di Josef. «Dipenderà forse dal fatto che per la prima volta osservo tutto ciò come una cosa dalla quale mi devo separare». «Hai ragione», disse Knecht. «Capita così anche a me. Ma se anche andremo via di qua, in fondo, non abbandoniamo Eschholz. L'hanno abbandonata veramente soltanto quelli che se ne sono andati per sempre. questi hanno davvero preso congedo. Da un pezzo non ho più pensato a loro e ora mi rivengono in mente. Ridi pure, ma nonostante tutto, quegli apostati destano in me una certa riverenza. Come Lucifero, l'angelo ribelle, possiede una certa grandezza. Forse hanno fatto un passo falso, anzi l'hanno fatto senza dubbio. In ogni caso, però, qualcosa hanno fatto, qualcosa hanno compiuto. Hanno usato un salto per il quale ci voleva coraggio. Noi altri siamo stati diligenti, ragionevoli, abbiamo avuto pazienza, ma non abbiamo fatto niente. Salti, non ne abbiamo spiccati. Non so, fece l'altro. Alcuni di loro non hanno né fatto né usato niente. Hanno solo tirato la fiacca finché furono mandati via. Ma forse non ti ho capito bene. Che cosa intendi con quel salto? Intendo la capacità di lanciarsi, di fare sul serio, insomma di saltare. Io non mi auguro di saltare indietro nella mia vita precedente, che non mi attira e che ho quasi dimenticata. Mi auguro però, quando venga l'ora e sia necessario, di sapermi anch'io staccare e di osare il salto, purché non sia l'indietro nella meschinità, bensì avanti e verso l'alto. I giovani camminarono 2 giorni e arrivarono al luogo dove abitava allora il Magister Musiche, nell'alta Monte Port. Qui egli stava tenendo un corso per direttori d'orchestra. Il compagno fu alloggiato nella foresteria, mentre Knecht ebbe una piccola cella nella casa del Magister. Vi aveva appena disfatto lo zaino e si era appena lavato, allorché vide entrare il venerando padrone di casa. Questi strinse la mano al giovane, sedette con un breve sospiro su uno sgabello, chiuse qualche istante gli occhi, come faceva quando era molto stanco, e riaprendoli, disse poi affabilmente: «Scusami, non sono un bravo ospite. Tu arrivi da un viaggio a piedi, sarai stanco. Per dire il vero lo sono anch'io. La mia giornata è piuttosto sovraccarica. Ma se non hai già sonno, vorrei averti subito per un'oretta nella mia stanza. Qui puoi rimanere 2 giorni. Domani puoi invitare alla mia tavola anche il tuo compagno. Ma purtroppo non ho molto tempo per te. Sicché dovremo cercare quel paio d'ore che ci sono necessarie. Possiamo dunque incominciare subito, no?» E condusse Knecht in una grande cella avvolta, dove non c'erano altri suppellettili che un vecchio pianoforte e 2 sedie. Quando furono seduti, il maestro incominciò: «Tu passerai presto a un altro grado. dove imparerai molte cose nuove e anche belle. Presto incomincerai a fare la conoscenza del gioco delle perle. Tutte cose belle e importanti, ma una è più importante di tutto il resto. Imparerai a meditare. In apparenza lo imparano tutti, ma non sempre lo si può controllare. Da te mi auguro che tu lo impari altrettanto bene quanto la musica. Tutto il resto viene poi da sé. Perciò vorrei darti io le prime due o tre lezioni. È questo il motivo del mio invito. Oggi dunque e domani e posdomani cercheremo di meditare un'ora al giorno e precisamente sulla musica. Il maestro si girò sulla sedia e posò le mani sulla tastiera. Suonò un tema e lo sviluppò con variazioni. Pareva un brano tolto da un musicista italiano. Invitò l'ospite a figurarsi l'andamento di quella musica come una danza, come una serie ininterrotta di esercizi di equilibrio, come una sequenza di passi brevi e lunghi, partenti da un asse di simmetria, e a non badare ad altro se non alla figura formata da quei passi. Suonò le battute un'altra volta. Ci pensò su in silenzio. Le suonò ancora e, con le mani sulle ginocchia, stette in perfetto silenzio, gli occhi semichiusi, senza alcun gesto, ripetendo e considerando la musica dentro di sé. Anche l'allievo stette ad ascoltarla nel proprio cuore. Vide frammenti di pentagrammi, vide muoversi qualcosa, camminare, danzare e librarsi, e cercò di riconoscere quel movimento e di leggerlo come si leggono le curve della linea d'un volo d'uccello. Gli parve che molto tempo fosse passato allorché uscì di nuovo da quello spazio e risentì la sedia sotto di sé, il pavimento di pietra coperto di stuoie, la luce crepuscolare, impallidita, fuori delle finestre. Notò che qualcuno lo guardava e, alzato lo sguardo, incontrò quello del maestro che lo fissava con attenzione. Questi gli fece un cenno appena percettibile. Suonò con un dito, in pianissimo, l'ultima variazione di quel brano di musica italiana e si alzò dicendo: «Resta pure seduto. Ritornerò più tardi. Cerca ancora una volta la musica dentro di te. Bada alla figura, ma non prenderlo come un dovere. È soltanto un gioco. E se ti addormenti, non importa». Quando ritornò per cenare insieme con Joseph, trovò quest'ultimo silenzioso, ma contento, e niente affatto stanco. «È stata una cosa bellissima», commentò il ragazzo trasognato. «La musica è scomparsa del tutto e ha subito una metamorfosi». Thank you. Al risveglio non ricordava nulla, ma quando più tardi, durante la passeggiata mattutina, il maestro gli domandò se avesse fatto qualche sogno, ebbe l'impressione di aver vissuto, dormendo, qualcosa di brutto, di eccitante, e dopo averci pensato, ritrovò il sogno e si stupì che fosse così innocuo. Il maestro lo ascoltava attentamente. «Ma è il caso di badare ai sogni?» domandò Joseph. «Si possono interpretare?» Il maestro lo guardò negli occhi e disse: «A tutto bisogna badare, poiché tutto si può interpretare. In quale scuola preferiresti passare?» Joseph arrossì e disse subito a voce bassa: «Credo a Vatzel». Il maestro approvò. «Me lo immaginavo. Tu sai l'antico adagio: Genie tautem artificiosam». Ancora rosso in faccia, Knecht completò il detto ben noto fra gli allievi: «Genie tautem artificiosam lusorum gentem, cella silvestris», che significa: «Waldzell, però, produce l'ingegnoso popolo dei giocatori di perle». Il vecchio lo guardò con affetto. «Probabilmente, Joseph, questa è la tua vita. Tu sai che non tutti sono d'accordo col gioco delle perle di vetro. Secondo loro sarebbe un surrogato delle arti. Dicono che i giocatori sono esteti, persone da non considerarsi come veri e propri intellettuali, bensì artisti dilettanti, dediti alla libera fantasia. Vedrai da te quanto ci sia di vero. Forse tu stesso immagini il gioco delle perle con una fiducia che esso non manterrà, ma può avvenire anche il contrario. Certo è che il gioco contiene pericoli, ma appunto per questo lo amiamo. Per vie senza pericoli si mandano soltanto i deboli. Tu invece non devi mai dimenticare quel che ti ho detto tante volte. Noi abbiamo il compito di scoprire le antitesi in primo luogo come antitesi, poi come poli di un'unità. Ciò vale anche per il gioco delle perle. Bene, tu vedrai queste antitesi e col tempo scoprirai che non sono antitesi degli oggetti, bensì dei soggetti. Che per esempio un artista di fantasia non evita la matematica pura o la logica perché ne abbia riconosciuto qualche parte e abbia qualcosa da dire in proposito, ma perché istintivamente ha altre tendenze». «Oh, poter diventare sapienti!» esclamò Knecht. «Trovare una dottrina, una cosa nella quale si possa credere. Tutto si contraddice, tutte le cose si sfiorano senza incontrarsi, non vi è nessuna certezza. Ma non esiste dunque una verità? Non c'è una dottrina vera e valida?» Il maestro non aveva mai udito parlare con tanto impeto. Proseguì per un tratto, poi disse: «La verità esiste, mio caro, ma non esiste la dottrina che tu desideri, la dottrina assoluta, perfetta, che sola dà la saggezza. E tu non devi neanche desiderare una dottrina perfetta, bensì il perfezionamento di te stesso. La divinità è in te, non nei concetti e nei libri. La verità si vive, non si insegna. Preparati a combattere, Joseph Knecht. Vedo che la lotta è già cominciata». Noi sappiamo che Knecht ricevette allora dal Magister anche alcuni primi accenni e avviamenti al gioco delle perle, ma non una parola ce n'è pervenuta. I due ragazzi presero la via del ritorno ed erano più sereni e loquaci che nel venire. E quando furono di nuovo su quell'altura sopra Heschwitz, con la vista dell'istituto e degli alberi, i discorsi che vi avevano fatti parvero loro ormai remoti nel tempo. Le cose avevano assunto un aspetto nuovo e, senza dirsi nulla, si vergognarono un poco dei sentimenti e delle parole di prima che, così presto, erano state superate e rese vuote. A Eschholz, già il giorno seguente, seppero la loro destinazione. Knecht doveva andare a Waldzell. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.